Uno, vabbè, e puoi stare. Nessuno, meglio ancora, così non c'è contagio, ma 100.000 no. E no, no, 100.000 no, quello è assembramento, 100.000 non lo posso accettare. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, una nuova settimana di Uno, nessuno, 100 Milan. Ci siamo in diretta fino alle 11, siamo con voi, con Danilo Di Trani, che oggi ci assiste insieme al nostro Carmelo Lauricella in regia. E va bene così, dovevamo purtroppo passarci. Insieme alla nostra redazione, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi. Ah, ragazzi, da oggi sono anche in diretta su Facebook dalla ridotta di Viale Monza, in video su Facebook, non è un bel vedere, ma insomma sappiate che se volete ci potete seguire anche sulla diretta video su Facebook, nella nostra pagina Uno Nessuno 100 Milan. Abbiamo tante cose, una puntata molto ricca, oggi con protagonista subito in apertura un medico, professore che è finito su tutti i giornali per le dichiarazioni di ieri da Lucia Annunziata. E allora vogliamo subito partire, vai Carmelo, vai. Enthusiasm about the future. Dico solo i numeri di telefono: 349-238-6666, questo è il numero per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi audio, oppure 800-24-0024, sapete che ci chiamate lì. Allora, professor Zangrillo, buongiorno. Professore, buongiorno, direttore della terapia intensiva a San Raffaele, buongiorno. Che ci ha combinato? È finito su tutti i giornali, ma potenza della TV intanto. Lei ha detto quello che molti medici dicono, e cioè che l'osservazione clinica fa notare che questo virus non provoca più malati come prima. Però è un po' pentito di averlo detto così, le chiedo subito questo, viste le reazioni che ci sono state. No, non sono assolutamente pentito, sono rinfrancato dalla forza della verità, perché quello che ho detto non è come maliziosamente qualche testata nei titoli e nei sottotitoli ha messo. No, il Zangrillo dice il virus è scomparso. Non sono assolutamente persuaso, anzi sono certo che il virus è ancora tra di noi. Però ci sono tanti virus che sono tra di noi. Io ho detto esattamente, testualmente, virgolettato, il virus è clinicamente inesistente. Esatto, comparso. Esatto. Ecco, se uno omette il clinicamente per farmi del male, fa del male a se stesso. No, ma infatti io su questo sono assolutamente dalla sua parte. Cioè lei fa notare quello che tanti professori hanno fatto notare, anche il professor Remuzzi, che dopo sarà con noi, ha fatto notare, e cioè che l'osservazione clinica, e lei ce lo può confermare, dice che non ci sono più malati così gravi, che è un bene, dovrebbe essere una notizia accolta con grande gioia da parte di tutti, no? Con grandissima gioia, certo. Con grandissima gioia, perché io poi peraltro non è che adesso invito, come dire, i ragazzi questa sera a festeggiare nelle piazze italiane senza la mascherina, abbracciandosi e sbaciucchiandosi. Invito alla prudenza, invito, come ho sempre detto, ad osservare quelle norme che io definisco di buon senso, che ci porteranno sicuramente nel giro di un mese a dimenticarci del dramma che abbiamo vissuto. Perché tutte queste cose, quando le dico, io le dico sempre con un retropensiero molto doloroso a tutte le persone che non ce l'hanno fatta e a tutti i loro congiunti. Questo certo, lo dico con certo. Molta veramente forza e fermezza. Poi c'è un'altra cosa, se mi permette, che è fastidiosa e un po' è suggestiva in questo nostro paese. Perché vede, sembra quasi che i clinici stiano da una parte, gli scienziati dall'altra. Allora noi ci dobbiamo intendere sulla qualifica di scienziato. Perché se andiamo a vedere i parametri, io sono molto più scienziato di tanti autoproclamatosi scienziati, anche facenti parte del comitato tecnico. Perché vede, in Italia per essere scienziati bisogna produrre scientificamente, non solo in Italia, nel mondo. E la produzione scientifica ha dei parametri molto precisi, che sono visibili a tutti, basta andare sui motori di ricerca, nelle librerie internazionali e si vede quello che ha prodotto scientificamente Zangrillo rispetto a Mario Rossi o rispetto a Milan. E poi alla fine, certo, se vuole facciamo la classifica. Vabbè, rispetto a Milan è partita, come dire, 6-0. Vabbè, altri, altri. Vabbè, no, però le chiedo questo, professor Zangrillo. No, questo è importante, sì. Ha visto, al di là dei giornali, c'è stata anche una reazione del... ecco, mondo scientifico, poi adesso lei dice andrò a verificare chi evidentemente ha prodotto di più. Certo, io faccio parte a pieno titolo e posso dire, la mia università è il mondo scientifico, il ranking della mia università è il primo ranking a livello nazionale, quindi voglio dire, non è che siamo a Rocca Cannuccia, con tutto il rispetto per Rocca Cannuccia, quindi, insomma, non c'è dubbio, sa cosa che... I cittadini, sì, certo. È chiaro che i cittadini sono un po' disorientati quando vedono diversi scienziati che non sappiamo misurare nella loro capacità dire cose un po' diverse o litigare, ecco, dire qualcuno, non so, sentire il professor Locatelli che dice un messaggio pericoloso, capisce che il cittadino dice: cosa faccio? Credo a Zangrillo o credo a Locatelli? Lei ha perfettamente ragione. Vede, io dal primo momento, quindi praticamente dal 22 febbraio e nelle settimane successive in cui ho vissuto un dramma personale, ero estremamente infastidito e sono tuttora infastidito dall'enunciare i numeri, no? Perché i numeri in qualche modo spaventano e terrorizzano. Ho sempre trattato gli italiani come persone con la testa sulle spalle, lo hanno dimostrato. Agli italiani va raccontata la verità. Quindi quando gli italiani 2 anni fa dicevamo abbiamo il lockdown, per favore, è necessario, adesso dobbiamo dire quello che ho detto, cioè ne stiamo uscendo, continuate ad applicare le norme del buonsenso, ma iniziate a pensare... Ma niente terrore, niente terrore. Come per i precedenti due corona beta virus, perché questa è la categoria, può darsi che questo fugga. Invece a qualcuno forse fa più comodo pensare che ritornerà più minaccioso di prima. Io spero di no. Gli italiani devono sapere la verità, sono persone intelligenti che leggono, quelle che non leggono si faranno raccontare, ecco, però l'importante è che sappiano la verità, altrimenti facciamo la figura degli untoni, non ci vuole la Grecia, la Sardegna chiude i confini regionali e tante altre cose. E via vicino. Professore, no, io la ringrazio perché insomma mi faceva piacere partire da colui che è diventato un po' il protagonista, ripeto, Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, gliene è andato la luce annunziata, potenza della TV, perché qui, e nel salutare il dottor Zangrillo che ringrazio, grazie, da buon qui, lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei, ecco, dico potenza della TV. Poi c'è da fare una considerazione anche sulla questione degli untori. Io ieri ho scritto su Facebook questa considerazione che mi è venuta da comunicatore, non da scienziato, ma da comunicatore. E cioè, dici, adesso ci considerano un lazzaretto. Ma forse un'autorappresentazione da lazzaretto, un po' i numeri non ci hanno aiutato e un po' la comunicazione non ci ha aiutato, perché per mesi abbiamo visto inviati di grandi trasmissioni televisive trasmettere da fuori dall'ospedale a dire attenzione, sta arrivando un'ambulanza, come se dovesse arrivare invece un autobus, una corriera in ospedale. Nell'ospedale arriva in genere un'ambulanza anche a sirene spiegate. Ecco, abbiamo fatto questa autorappresentazione. Io negli ultimi mesi ho chiamato tante persone in America, negli Stati Uniti, perché sto facendo un lavoro, e molti, quando dicevo telefono da Milano, mettevano una voce allarmatissima a dire oddio, stai bene, state bene, e per carità, la situazione era molto grave a un certo punto, non mi sentivo però sotto le bombe in Siria, forse abbiamo dato una rappresentazione della realtà esagerata, ma dico potenza della TV perché in realtà il professor Giuseppe Remuzzi, che saluto, direttore dell'Istituto Ricerche Mario Negri, ben ritrovato professor Remuzzi, ha detto queste cose in TV, le ha dette anche qui, io ricordo che ci diceva, lo dico sottovoce, ma clinicamente il virus non procura più malati come prima. Ecco, professore Muzzi è con noi. Adesso lo recuperiamo. Lo recuperiamo perché ha detto il virus non crea più malati come un tempo. Come ha detto Zangrillo, forse questa verità va detta senza per questo voler dire il virus è scomparso. Nessuno questo sta dicendo. Quell'aggettivo clinicamente non c'è più è quello che fa la differenza. L'abbiamo recuperato il professor Remuzzi con noi? No, non c'è il professor Remuzzi. E allora che dobbiamo fare? Era con noi, poi la linea è caduta, adesso proviamo a vedere di recuperarlo. Vogliamo allora così rompere lo schema un attimo e sentire quello che ha detto intanto De Luca? De Luca che si sa. Ogni tanto si lancia in sue dichiarazioni, soprattutto il venerdì in TV. E allora sentiamo che cosa ha detto De Luca sugli assistenti civici. Vai. E allora noi ci domandiamo che cosa devono fare questi 60.000. Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Va bene, De Luca è così. Professor Remuzzi, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, lei ce l'aveva già detto, quello che adesso il professor Zangrillo lo aveva detto anche in TV, eccetera, poi ce lo diceva sottovoce, ma il dato di fatto è questo. Perché spaventa così tanto dire quella che Zangrillo dice una verità, cioè che clinicamente, questo avverbio è importante, clinicamente il virus non si vede più come prima? Ma dunque, clinicamente il virus è sparito, è un po' uno stimolo. In realtà la malattia non c'è più, o comunque si presenta in un modo completamente diverso da prima. Sul virus onestamente non sappiamo niente. Il virus o non c'è, non è che possa esserci clinicamente o non clinicamente. Noi non vediamo più malati. Questa è una bellissima notizia, io l'ho detto tanto tempo fa. Ho detto a lei che la dicevo sottovoce perché prima l'avevo già detto ed era stata un po' criticata la cosa, ma il fatto sicuro è che non arrivano negli ospedali ammalati con difficoltà respiratorie. Quindi si è modificata la malattia. Io credo che il virus ci sia, si sia ridotta la carica virale, questa è una possibilità, e allora il virus si ferma nelle prime vie respiratorie anziché procedere nei polmoni e arrivare agli alveoli, dove fa questo danno terribile. È ancora lo stesso virus? Non lo so. C'è la possibilità individuata a Brescia dal professor Caruso, che è molto bravo, e che ha trovato un tampone positivo con una grande carica virale che però non uccideva le cellule come fa normalmente il virus. E questa è una notizia che, se fosse frequente, perché noi non sappiamo quanti virus hanno questa proprietà che lui ha trovato, allora vorrebbe dire che il virus si è attenuato, ma è presto per dirlo, non lo possiamo dire. Certo, comporta questo tipo di rischio? Guardi, le giro questa domanda che anche il nostro Leonardo Manera ci ha mandato e tra poco si collegherà. E cioè, se il virus è meno forte, usiamo dei termini magari un po' impropri, ma lei può capire, può rimanere magari non a livello dei polmoni, ma non so, nel naso, nella gola, senza creare anticorpi, ma risulta con tampone positivo? Cioè, se uno fa il tampone risulta positivo? È possibile. Tra questo però vuol dire che rischiamo di... Certo, cambia tutto. Tenete conto che il tampone positivo non vuol dire necessariamente che uno è contagioso, perché quando il professor Caruso, ma l'abbiamo visto anche noi, ha visto questi tamponi, ce n'era molto poco di virus. E poi non è che noi nel tampone vediamo il virus, noi nel tampone vediamo l'RNA virale. Se questo è molto poco, non è detto che corrisponda al virus intero. Quindi campione positivo uguale persona contagiosa non è detto, c'è un lavoro su Nature che dice attenzione, perché non tutti i tamponi positivi. Accidenti, questo cambia anche la questione del numero dei tamponi, cioè se uno misura il numero dei positivi... Questo cambia tutto. Io credo che il tampone è stato una cosa all'inizio di tutte le epidemie in tutti i paesi del mondo, e quindi tampone, tracciare, eccetera. Adesso i tamponi positivi potrebbero essere tantissimi, perché è la coda dell'epidemia, e tracciare per esempio i tamponi della positivi della metropolitana di Milano o di New York o di Parigi è semplicemente impossibile. Quindi noi come Non so se lei si ricorda che all'inizio noi dicevamo, guardate che questa non è la polmonite interstiziale solita, è una cosa che bisogna capire. Quando l'abbiamo capita, magari i farmaci ci sono già. È stato proprio così. Qui siamo nella stessa situazione. Abbiamo bisogno di capire. Non possiamo dire se a settembre ci sarà ancora. Anch'io, come il professor Gazzangrillo, penso di no, ma non lo posso dire con assoluta certezza. Certo. Non sappiamo dire se tornerà. Quello che le posso dire con una certa probabilità che si verificherà è che questo virus pian pianino circolerà per tutto il mondo, arriverà dappertutto, la maggior parte delle persone lo incontreranno in qualche modo, anche con una malattia lieve, perché tenete conto che la maggior parte delle persone hanno una malattia lieve, poi ci saranno immunità e questo sarà uno dei nostri soliti coronavirus che abbiamo, come quelli del raffreddore che ci accompagneranno, mettiamo fino al 2024 e poi basta. Vabbè, se arriva il vaccino prima o no, non lo sappiamo. Vedete, a me piace l'approccio, il professore Muzzi dice, cioè non è che lo scienziato debba sapere le cose, no, cioè, ci conferma, la scienza procede per ipotesi e poi le ipotesi vanno verificate, cioè dire al professore Muzzi arriverà o non arriverà la seconda ondata, lei può capire, cioè la gente vuole certezze, ma di certezze ce ne sono alcune, altre non tante, bisogna procedere per passi. C'è una certezza molto bella, che abbiamo meno malati nell'ospedale o per non dire che non abbiamo malati gravi. Questa è la certezza. Per il resto, purtroppo, per sapere cosa succederà a ottobre bisogna aspettare ottobre. Questo vedremo. Intanto, professore Muzzi, la ringraziamo. Certo che però per aver detto e per continuare a dire la verità ci vuole anche un'opinione pubblica che ascolti senza subito trarre delle conclusioni che coloro che dicono queste cose, come il professor Muzzi da tempo, come da ieri e oggi ha confermato il professor Zangrillo, vengono additati come coloro che dicono che messaggi sovversivi. No, stanno dicendo delle cose che osservano come lo scienziato che osserva, e quindi dice è così, come il dato di fatto. E io voglio salutare subito un ospite che è con noi. Il dato di fatto è che nelle residenze sanitarie per anziani e negli scorsi mesi, come leggevo ieri in uno straordinario reportage su Repubblica, è successo qualcosa di incredibile. Alessandro Azzoni è portavoce del gruppo che chiede verità e giustizia per le vittime della residenza sanitaria del Pio Albergo Trivulzio, forse la residenza più nota anche storicamente. Buongiorno Azzoni e grazie di essere qui. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, ovviamente Pio Albergo Trivulzio a Milano, dico anche un luogo simbolo, da lì partì Tangentopoli, lo sanno tutti, Mario Chiesa, eccetera, è tornata sulle prime pagine dei giornali. Devo dire che secondo me c'è stata una grande attenzione al Pio Albergo Trivulzio, perché è una grande struttura, è storicamente importante, in realtà la questione riguarda tutta Italia, mi sembra di capire. E, voi che cosa chiedete esattamente? Perché c'è un'inchiesta in corso. È un'inchiesta in corso, noi ci siamo uniti come familiari delle vittime del Pio Albergo Trivulzio, e visto che abbiamo verificato purtroppo che è successo quello che non sarebbe dovuto succedere, cioè che le persone che era risaputo fossero più le più vulnerabili e le più fragili al virus, quindi che sarebbero dovute essere protette, purtroppo no, così non è stato, quindi stiamo parlando di un mare di dolore, di morti, e in questo momento ci siamo riuniti per cercare di avere verità, perché ecco, ma è questo che le chiedo, la verità non, secondo lei non arriverà da una inchiesta della procura in corso? In corso è stata fatta anche una commissione per verificare eventuali errori da parte di qualcuno? Ma noi assolutamente siamo del tutto fiduciosi che la magistratura faccia il suo corso, sappiamo che ha i suoi tempi e noi come familiari vogliamo in qualche modo anche stiamo aiutando la magistratura fornendole le testimonianze e le evidenze di quello che in modo diretto stiamo registrando. Lei ci può raccontare la sua esperienza personale a proposito di queste testimonianze? Certo, certo, la mia esperienza personale, che poi è quella che in qualche modo ha portato alla nascita del comitato, perché io mi sono trovato, mia mamma è all'Alzheimer, ha 75 anni e da 2 anni era stata ricoverata al Pio Albergo Trivulzio. Quando l'ho ricoverata al Pio Albergo Trivulzio pensando di poterla mettere nelle migliori mani che potessero curarla per la sindrome di cui affetta. Quando ho saputo che l'8 marzo non si poteva più andarla a trovare per evidenti ragioni di sicurezza, io sono stato molto felice e ho pensato che mia mamma, che precedentemente era stata in casa con delle badanti, fosse in quel momento nel posto più sicuro dove potesse essere, quindi mi sono molto rasserenato da questo punto di vista. E è successo che il 25 di marzo sono stato chiamato da un medico che non avevo mai conosciuto del Trivulzio, che mi riferiva che mia mamma aveva la febbre. E naturalmente potete immaginare, in piena emergenza, il mio allarme nel sentire questa notizia. No, certo. E a quel punto ho chiesto al medico se fosse possibile che fosse coronavirus, e gli ho chiesto di eventualmente isolarla dal reparto in cui era tenuta. Il medico infatti mi chiedeva di poterla contenere a letto per il rischio di non andare a infettare le altre ospiti del reparto. E questo mi ha messo subito in allarme. Il medico mi ha detto che non era previsto un isolamento e che non era neanche previsto il tampone. Successivamente sono stato sempre rassicurato che la febbre di mia mamma era contenuta, che non aveva complicazioni respiratorie, e sono arrivato così fino al giorno di Pasqua. Giorno di Pasqua in cui finalmente, dopo molte difficoltà, sono riuscito a parlare con il reparto e mi è stato da un infermiere descritto uno scenario che era completamente diverso da quello che mi era stato descritto fino ad allora, ovvero che mia madre era molto grave, in un letto senza cibo né acqua e senza parlare da più di una settimana, e che nel reparto ormai il virus aveva circolato. Ecco, c'è da dire una cosa, Alessandro Azzoni, che giustamente, come ci fanno notare alcuni ascoltatori, un po' in tutto il mondo purtroppo la maggior parte di vittime sono state anziani, e molto spesso anche in altre parti del mondo nelle residenze sanitarie che ospitano gli anziani. Perché voi credete, e sulla base di che cosa, che ci possa essere stato qualcosa di sbagliato, tecnicamente sbagliato e quindi punibile dalla legge in quello che è successo in Italia? Sì, beh, come detto, noi desideriamo che la magistratura faccia il suo corso per verificare laddove ci siano delle responsabilità. Purtroppo sappiamo che le residenze per anziani sono state colpite molto fortemente in Lombardia, dove ci sono tassi di mortalità più alti al mondo, ma in modo diffuso. Però ci sappiamo anche che ci sono delle residenze dove non è morto nessuno, anche qui a Milano, senza andare troppo lontano. Certo. Quindi probabilmente bisogna partire da un concetto che è diffuso, a quanto pare, di pensare le persone anziane come persone di serie B, quindi in qualche modo. Certo, sì, e su questo mi trovo perfettamente d'accordo, è assolutamente sbagliato. Le evidenze del Pio Albergo Trivulzio, che ormai sono del tutto note, ci dicono che una dirigenza che ha preso misure di sicurezza in con un ritardo scellerato. Sì. Noi sappiamo che il più albergo Trivulzio fino al 23 di marzo veniva impedito al personale sanitario di indossare i dispositivi di sicurezza perché potevano spaventare gli ospiti. E questo, e qui ci sono documenti che sono già in possesso della procura che attestano questo. Che diciamo sappiamo questo. Inoltre che la Regione Lombardia l'8 marzo ha emesso una delibera che sì. chiedeva agli ospedali di, per liberare posti letto, di portare persone lì. Sì, sì, questa è, esatto. è la famosa delibera, insomma, di cui si è tanto parlato. Guardi Azzoni, facciamo così perché ho sforato già. Sì. C'è un'altra delibera sì, molto importante della Regione Lombardia, quella del 30 marzo, che imponeva il non trasferimento delle persone over 75 verso gli ospedali, quindi quasi la creazione di una gabbia in cui, da cui non si poteva neanche uscire, certo. Lei si può immaginare il risultato. Facciamo così, noi intanto la ringraziamo, che devo andare con qualche minuto di ritardo in pubblicità, poi vedremo, ripeto, Alessandro Azzoni, il portavoce del gruppo che chiede verità e giustizia per le vittime della residenza sanitaria del Pio Albergo Trivulzio. C'è un'inchiesta in corso, quindi non c'è nulla di, come dire, di definito e definitivo, i dati certamente ci sono, ma le responsabilità vanno nel caso stabilite. Un attimo di pubblicità e rientriamo. Uno, nessuno, 100 Milan. Mi permetto di dire ai ragazzi, evitate di comprare i superalcolici che fanno schifo, perché se vi vendono vodka a 50 centesimi al bicchiere, dovete sapere che quella vodka non viene da San Pietroburgo, ma viene distillata nelle reti fognarie delle nostre città, va bene? Niente, De Luca è così, deve anche, caro Leonardo Manera, De Luca deve anche educare a come bere, come a bere. Vabbè, bene. Però faceva ridere, dai, bisogna dire che come, il modo sì. in cui le reti fognarie. Ma che si frega paese. Se uno prende gli sciottini a 0,50 euro, peraltro. No, ha ragione, so. Guarda, io sono d'accordo con De Luca, sono d'accordo con De Luca. Una volta ricordo che... in Sardegna mi obbligarono una volta a bere una grappa distillata fatta in casa in un garage sì, e poi sì. sì no io poi sono stetti male sì, per diversi stetti male per diversi, tu stessi io stetti male, male. Era una grappa alla genziana, c'era dentro un ramo, un tronco, non lo so. Mi obbligarono in questo garage a bere questa grappa distillata nelle reti fognarie. Allora, va bene. Buongiorno a Leonardo Manera. Vi ricordo che noi siamo in questo momento in diretta anche su Facebook da oggi. Io con il mio bel faccione, si fa per dire, da casa. E Leonardo Manera in questo momento è stato messo anche lui in diretta con una bella foto. Ringrazio Sandro Fortunati. C'è una foto di una caldaia che ti... rappresenta la mia caldaia, in attesa, il mio congiunto, la tua caldaia, ci sono io e Manera, la caldaia, il mio affetto stabile, la mia caldaia. Va bene, beh, dai, va bene. La settimana è cominciata con delle buone notizie, no? Abbiamo sentito Zangrillo, sì. Remuzzi, una ventata di ottimismo, veramente sono esatto. contento. Mm-hmm. E invece vengono stroncati come dei... Vabbè, ma mettiamolo lì un attimo questo discorso, perché adesso Leonardo voglio dare spazio a una storia che in questi tempi di coronavirus, in cui si parla solo di questo, è finita un po' nelle pagine avanti dei giornali, però è una vicenda che mi ha molto colpito. Forse ricordate la vicenda di Deborah Sciacquatori, una ragazza di 20 anni, oggi ha 20 anni, e che ha ucciso il padre con una coltellata. Era il 19 maggio 2019. La notizia è che il GIP di Tivoli, quindi il giudice per le indagini preliminari, ha archiviato l'indagine a suo carico, stabilendo che l'omicidio avvenne per legittima difesa. Noi, Leonardo, ci siamo occupati di recente anche del caso della provincia di Torino, ti ricordi? Simile, ragazzo, simile. Sì. Poi ogni caso è diverso. Però vogliamo salutare Sara Proietti, che è l'avvocato di Deborah Sciacquatori. Buongiorno, avvocato, e grazie di essere qui. ci faccia capire ai nostri ascoltatori in base a che cosa il giudice abbia ha deciso, ha preso questa decisione che voglio dire fa molto scalpore, ecco, non è un giudizio negativo quando dico che fa molto scalpore, perché sapere di una ragazza che uccide il padre e però tutto archiviato, ci spieghi come mai? Beh, è stato riscontrato dalle testimonianze, dall'esame e poi appunto è riscontrato con l'esame autoptico che si è trattato di una tragica fatalità e che quindi è una tragica fatalità legata a una legittima difesa da parte della ragazza che nell'estremo tentativo di salvare e nel disperato tentativo di salvare se stessa, la mamma e la nonna dalla furia in cui si trovava il padre in quel momento, appunto è accaduto questo, ma in realtà non si è trattato di un accoltellamento, si è trattato soltanto di un estremo tentativo di, Deborah ha semplicemente poggiato un coltello dietro l'orecchio del padre, appunto nell'estremo e disperato tentativo di farlo desistere dal continuare a aggredire violentemente. Sì, diciamo, ecco, poi questa la dinamica sarà stata accertata, cioè ha puntato il coltello e nella colluttazione, si può dire, padre è caduto sul coltello, ecco. Ma in realtà non è che è caduto sul coltello, detto così sembra, no, lui aveva dei movimenti a scatto, quindi si muoveva a scatti, lei gliel'ha appoggiato, si è girato e quindi c'è stata questa l'accoltellamento certo. Accoltellamento mi dà l'idea di qualcosa di, diciamo, sì, di un'azione, in realtà, diciamo, è sì, un'azione, esatto. Non è stata un'azione perché ha appoggiato lui muovendosi appunto a scatti, si è girato verso il coltello a scatto, quindi si è tagliato, ovviamente in quel punto c'era l'arteria, quindi è morto dissanguato. No, ma diciamo ma che al di là della dinamica, certo, avvocato, al di là della dinamica che è fondamentale, perché la dinamica chiaramente certo. È stata fondamentale nel determinare la decisione del GIP, è proprio il contesto. Noi ci siamo occupati di recente del caso, forse l'avrà letto sui giornali, del ragazzo di Torino che ha ucciso il padre, adesso lui andrà a processo, però gli verrà concesso di fare l'esame di maturità, ma comunque ci sarà un processo, ogni dinamica è diversa. Però è interessante questo contesto evidentemente violento familiare nel quale i giudici valutano anche un atto così, così, così violento in questi termini. Lei da questa vicenda cosa ne trae? Ne può trarre una lezione generale oppure deve dire ogni caso va esaminato singolarmente nella dinamica che ovviamente si verifica? Ovviamente ogni caso va esaminato singolarmente perché niente è uguale, cioè ogni vicenda non è uguale ad un'altra, ma a ciò che bisogna focalizzare appunto quelle estreme, quelle situazioni tragiche in cui molte famiglie si trovano e che quindi c'è una violenza in tantissime famiglie che si protrae per anni e poi normalmente hanno come tragico epilogo un altro diverso da quello che è successo nel caso della mia sentita e noi tutti conosciamo perché la cronaca è piena di questo. Certo. In alcuni casi appunto è successo questo, ma devo dire che la procura è stata molto attenta a vagliare l'intero contesto, ovviamente estrapolato dal contesto potrebbe dare un messaggio diverso da quello che è. Questa appunto si è trattata di una difficile situazione familiare che ha avuto questo tragico epilogo, non voluto da nessuno, ma appunto dettato da tanti anni di violenze. Questo è il grande tema, perché spesso si dice denunciate, Leonardo l'abbiamo detto tante volte, no, e giustamente diciamo denunciate, però poi in qualche modo l'atto è stato giudicato di legittima difesa perché si è svolto nel momento in cui veniva attuata la violenza. Ovviamente. ovviamente. Cioè, intendo dire, non è che a fronte di violenze perpetrate, però in momenti diversi, se la persona fosse stata... Uno interviene, certo. Sì, tanto per capire, se la persona fosse stata a letto a dormire, non è che è accettabile un'azione di questo tipo. Invece è successo mentre il padre stava agendo, proprio dal punto di vista violento. Avvocato Prieti, è stato un estremo tentativo di far desistere, di continuare... Ci può dire in conclusione, dal punto di vista della legge, cioè l'aspetto del denunciate spesso si sente dire, e lo diciamo anche noi, soprattutto a beneficio delle donne, ma anche degli uomini vittime di violenza, perché adesso la legge consente una maggiore protezione, eppure di storie così, cioè di violenze familiari che vengono poi risolte in qualche modo o in un modo o in un altro, ne sentiamo tante ancora, e quindi, avvocato, che bisogna fare se si è vittime di violenza? Rivolgersi appunto agli sportelli appunto appositi. Infatti, devo dire, anche il Tribunale di Tivoli ha uno sportello spazio ascolto per appunto le vittime di violenza di genere, del quale appunto io sono onorata di far parte, e comunque sia in Italia ce ne sono fortunatamente diversi, proprio perché si ha la sensibilità a questa situazione. Il problema di fondo è che le vittime, il 99% dei casi, non denunciano, perché se ci sono minori hanno paura che con l'intervento dell'autorità i figli gli vengano tolti. Quindi questo è il motivo principale per il quale tantissime donne non denunciano, è questo, perché interviene il tribunale per i minorenni, perché intervengono gli assistenti sociali e perché spesso loro temono di figli appunto gli vengano tolti. La sentiamo male adesso un attimo. Avranno l'appoggio giusto, ecco, per far capire che non saranno lasciati soli, comunque che questo loro timore non ci deve essere. La cosa importante è appunto rivolgersi Comunque il messaggio appunto di continuare a denunciare. No, noi avvocato la ringraziamo molto, ripeto. Grazie. Sara Proietti, l'avvocato di Deborah Sciacquatori, ragazza che oggi ha 20 anni, ha ucciso il padre, ha ucciso però in una situazione di legittima difesa, cercando di far desistere il padre dall'ennesimo tentativo di violenza in famiglia. Era il 19 maggio 2019, forse ricordate la vicenda, il GIP ha archiviato tutto, ha archiviato l'indagine a suo carico, quindi non dovrà rispondere penalmente di alcunché. Leonardo, andiamo un attimo al traffico e poi... Allora, Leonardo è sceso in piazza sì, con il generale Pappalardo. Non ce l'ha detto sabato, era in Duomo a manifestare. Sì. Vabbè, tra poco, dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Sono schifo! I vaccini non sono nocivi, sono pericolosi. Eccolo lì, il generale Pappalardo. I gilet arancioni, eccolo lì. No, sabato, io non ero con i gilet sabato, arancioni, non sabato in Duomo, sabato in piazza. E c'era anche Leonardo Manera sabato in piazza. No, no, no, non eri sì, sabato in piazza Duomo? Ero in piazza Duomo, ma ero per la manifestazione, ecco, che è stata fatta dalle 17 in avanti. Te dai lavoratori. Pappalardo, sei con i gilet arancioni. No, ero con i lavoratori dello spettacolo, tra i quali allora, cari ascoltatori, Leonardo Manera sabato era in piazza Duomo a manifestare, ma ci sta dicendo che non era con il generale Pappalardo. Ma si può un bugiardo più patentato di ma questo? Ma che bugiardo? Ho le prove. C'era anche Peter Bescapè che faceva delle fotografie, ha fotografato anche me mentre dicevo due cose al microfono nell'ambito della manifestazione dei lavoratori dello spettacolo. Quindi fornirò le prove. C'è anche una foto di Leonardo Manera, devo dire, in piazza Duomo, che incrocia una collega del mondo dello spettacolo e la guardavi proprio negli occhi, devo dire. La guardavi negli occhi con uno sguardo... Che pesante, Alessandro Mino, un macigno. La trovate questa foto? Forse la pubblicheremo, anzi così, Lorenzo Nespoli, puoi pubblicarla sulla pagina di Uno Nessuno 100 Milan. La manifestazione era tratto dallo spettacolo.

facendo la pubblicità a delle caldaie di un programma offerto tipo. Da è un programma offerto, un programma da, offerto da, dalla caldaia, caldaie Cristiano, no. C'è Massimiliano dalla provincia di Milano. Massimiliano, vai adesso, miglioriamo, vai Massimiliano. Buongiorno Milan. Niente, ecco, io volevo fare solo una considerazione riguardo come è stata, diciamo, gestita dal punto di vista mediatico il coronavirus. Facevo riferimento all'intervento di prima. E effettivamente la colpa, io lo do, generalizzo, però bisogna darlo alla stampa, perché cioè, non alla stampa, ai media. Non come quotidiano la stampa, ma i media. No, no, vabbè, esatto. Nei media ci siamo anche noi, io e Leonardo, per esempio, il terrorismo non l'abbiamo fatto. Terrorismo, utilizzo questa parola, però no? Abbiamo sempre dato parola alla scienza. Che dice Massimiliano? Confermo, io faccio riferimento a tutte le trasmissioni che sono state mandate in onda diciamo ai collegamenti agli ospedali e via discorrendo. Sembrava proprio un evento mediatico, sì, e questo sì. Alla fine, certo, ha dato l'immagine che ha dato al mondo. Ha pagato, va bene Massimiliano, questo è un po' quello che ho detto anch'io. Sicuramente le TV non hanno contribuito, non per dire le TV sono brutte, le radio sono belle. Adesso noi abbiamo anche noi i nostri problemi, per esempio mettiamo una foto di una caldaia così su Facebook. Scherzo, dai, giornale radio, la seconda ora di Uno Nessuno, 100.000, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Bravo Zangrillo, bravo Alessandro. Almeno per una volta un messaggio positivo, perché sono mesi veramente che ci terrorizzano, stanno distruggendo un paese, un'economia. Mo, con tutto il rispetto che magari c'è stata la malattia, c'è stata questo inverno, però adesso basta, cioè, cerchiamo di andare avanti, anche perché se no qui ci uccidiamo tutti, eh. Caro Milan, questo paese ha bisogno di 10, 100, 1000 professor Zangrillo. Capito, Manera? La guardia non va comunque abbassata. Non postare più cose dove inviti a non mettere la mascherina. E io quando le avrei postate queste cose? Quando no, dovrebbe sì, dirmi? Manera. Manera è fatto un po' io. Così. No, Manera no, è un po' detto è un generale pappalardo in piccolo, d'altronde va sabato in Piazza Duomo. La continua a mettere, sì. Ma dico che non se ne può più di mettere la mascherina. Tra l'altro credo che l'obbligo sia rimasto solo in Lombardia e Piemonte, se non sbaglio, giusto? Sì, all'aperto. Il Veneto l'ha tolto all'aperto, poi al chiuso c'è ancora. Comunque la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, guarda che chi ci guarda su Facebook, in diretta Facebook, può notare che a fianco a me si è materializzata una persona che non ho capito perché oggi non sia a scuola. Ah, ecco, perché oggi la scuola non c'è. Buongiorno. Buongiorno. Saluto Mattia. Mattia, cosa hai da dirci, Mattia? Perché sei qua? Che appunto tu hai detto che non c'è la scuola e quindi io gioco a farne tutto il tempo senza che lo sai. Bene, in realtà lo so. È che non posso fare nulla essendo qui. Ma qui andiamo male. È un pessimo atteggiamento quello del padre che sa ma fa finta di non sapere, perché poi tu puoi sempre cosa faccio? Dire, ah, vabbè, lascio la diretta, cosa faccio? No, cosa no, posso fare? Il tuo è un alibi, perché dopo dici ma io non sapevo che giocava tutto il tempo a Fortnite, per giustificare te stesso, in realtà lo sai bene. Ma tra l'altro Mattia ha una curiosità, perché ha visto anche lui, ha sbirciato su Facebook ma perché su Facebook invece della foto di Leonardo c'è una caldaia? Ma cosa? Perché? Una caldaia però con la didascalia aggiunta dal nostro Sandro Fortunati, Leonardo Manera. È lui, guarda, quali denti. È una lunga storia, Mattia. Posso spiegare, Mattia? È una lunga, la spiegazione triste è questa. Storia. Chiunque si avvicini a me riceve del tepore come se fosse vicino a una caldaia. Io distribuisco calore umano e per questo è stata messa in mia vece la foto della caldaia. Va, è una storia molto più triste e molto più cupa. Adesso vai a scuola, vai a giocare a Fortnite. Vai a giocare a Fortnite, vai a scuola, non lo so. Sì, c'è il ponte. C'è quest'altra genialità. Il ponte del 2 giugno, certo. Tu sei il classico genitore che parcheggia i figli davanti ai videogiochi. No, questo sei tu e lo hai confessato più volte. Sapete che Leonardo Manera, questo lo diciamo soprattutto ai maestri di Beniamino, ha detto: ma io questo lockdown, dico a Beniamino, ma gioca tutto il giorno, quando è che ti ricapita di fare 5 mesi di scuola così? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Va bene, dai, c'è Angelo dalla provincia di Bergamo. Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi. Io vorrei parlare un po' dal paradosso, no? Perché sentendo i giornali, le TV, i giornalisti, i intrattenitori delle scemenze, li chiamo, non voglio dire i nomi, quelli che parlano bene di uno e parlano male degli altri, dicono che i soldi non arrivano, ci sono imprese che non arrivano a fine mese, ci sono la gente che va a prendere i soldi per mangiare e noi stiamo qua a litigare perché la Grecia, la Sardegna non apre, ma ci stanno prendendo per i fondelli. Lei dice invece di pensare alle vacanze dovremmo pensare a cose un po' più... Certo, più concrete, più serie. Cosa mi interessa a me se la Grecia non apre, se no i soldi che di non andare? Ma sì, allora Angelo, lei sottolinea una cosa, effettivamente il dibattito è un po' sproporzionato, sembra che adesso il vero dramma sia dove andiamo in vacanza, non è un dramma, non è neanche da sottovalutare l'importanza delle vacanze, di un attimo di stacco dalla vita normale, soprattutto quest'anno che è stata per molti molto stressante, però effettivamente non può essere la preoccupazione numero uno le vacanze, la preoccupazione numero uno è che i negozi uno su tre rischia di chiudere per sempre, questo per esempio statistica alla mano che trovate oggi su tutti i giornali, no? E quindi lei, Angelo, dice occupiamoci di cose un po' più concrete. Io vorrei sapere se un negozio vai là e dici dove vai in vacanze e lui ti dice ma se non entra nessuno qua dove vuoi che vada in vacanze? Un po' è così. Sono due Italie, nel senso che ci sono persone che hanno continuato a guadagnare normalmente quello che guadagnavano prima e altri che invece hanno visto i guadagni ridotti a zero. E ti dirò di più, caro Leonardo, oggi Pierluigi Battista fa un'interessante analisi, leggetela, la trovate sul Corriere della Sera, delle due Italie anche dal punto di vista psicologico, che è un po' il tema che abbiamo affrontato anche noi, cioè di coloro che dicono... apriamo perché si muore anche di solitudine, di chiusura, quelli che vogliono vivere e quelli invece che sono terrorizzati e hanno paura di morire, ecco, la diciamo molto brutalmente, quelli che invece dicono ma si muore anche con questa cappa continua di chiusura, no? È meglio provare a vivere in qualche modo. Tra l'altro vorrei farti notare, come ci hanno fatto notare molti ascoltatori, sai qual è stata la prima pubblicità quando siamo andati in pubblicità appunto prima del giornale radio? Argo pompe no. E caldaie. quindi è ufficiale. No, è ufficiale che siamo una trasmissione offerta da... No, non diciamolo, sennò dovrebbero pagare di più. Però ci stava, o di meno, sì, esatto, ci stava, sì, li paghiamo noi per sponsorizzarci la trasmissione. Però la mia caldaia si rompe di continuo. Perché il problema della mia caldaia qual è? Che non solo ogni anno viene il manutentore a fare la manutenzione di legge, Cristiano, che io quindi devo, esatto, Cristiano che devo pagare, mancato. Ma poi oltre alla manutenzione prevista ex legge, ogni anno si rompe qualche componente della caldaia, il vaso di espansione, la pompa, è tutto, quindi ho una doppia spesa, la caldaia mi costa il mantenimento della caldaia. Ti costa molto, e Cristiano ne gode, ma guarda che io, cioè, ti giuro, non riesco a uscire da questa immagine, sono fisso sul, non il mio faccione brutto, su Facebook, ma a fianco la caldaia con la didascalia Leonardo Manera, ti giuro, non esco più da questa cosa. Allora, attenzione, voglio chiamare Carlo dalla provincia di Pavia. Buongiorno Carlo, vediamo un po'. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Grande Carlo, io ti conosco, ma tu vai avanti, sì. Vai avanti Carlo, vediamo un po' se tutti riconoscono, vai Carlo, vai. Allora, vi saluto perché ci conosciamo, Alessandro e Leo, soprattutto il Leo ci perché conosciamo? Sono suo fratello. Eccolo! Volevamo fare la carrambata, ma vedo che Leo era muto. Silenzioso. No, non l'avevo riconosciuto, perché per me, spiego certo, questa cosa, Carlo, per me non è Carlo. Capito proprio a fagiolo sui vostri discorsi, perché sono un medico, sto facendo il ponte e ho i figli che vanno a scuola online. Stupendo. Per cui rientro. No, ma aspetta che Carlo, aspetta, perché Leonardo dice che non ti aveva riconosciuto, perché per te, Carlo? Perché per me Carlo, no, non è Carlo, Eugenio, ma è il secondo Eugenio. Nome, in realtà mi chiamo Carlo. Ah, è Eugenio, vai. Vabbè, cosa ci vuoi dire, no, Carlo, medico, questo, fratello di Manera? Zangrillo finalmente ha detto quello che tutti i medici che operano sul territorio stanno dicendo dai primi di maggio, solo che non lo possono dire, diciamo, pubblicamente, perché si è instaurato un panico tale che, dicendo così, sembra quasi di essere degli incoscienti. Come ci ha detto Remuzzi, prima di Zangrillo ce l'ha detto anche Remuzzi, cioè... voce c'è stata, però prevalgono sempre le voci, non voglio dire terroristiche, le voci preoccupate, che comunque inducono panico, del Comitato Tecnico Scientifico. In realtà nessuno sa ancora con precisione se questa fantomatica ondata ci sarà o non sì, ci sarà. Sì, sì. Quello che abbiamo detto in realtà quotidianamente, giorno per giorno, è che ormai anche quei pochi che ancora prendono, diciamo, il coronavirus sviluppano una malattia che è tutto sommato analoga a quella che è presentata dagli altri coronavirus. Bene, Carlo, insomma, ce lo conferma. Però adesso io ho una domanda a Carlo: ma quando viene, quando vi incrociate, vi ripeto, Carlo, fratello di Leonardo Manera, cioè, tra l'altro, ragazzi, che famiglia, cioè, Carlo in realtà è Eugenio, Manera si chiama Bonetti, cioè, io non ci capisco niente. Siete una famiglia ben strana, Eugenio, Carlo, signor Bonetti, Manera. Vabbè, insomma, Carlo, ma quando tu lo vedi, gli dici fammi fluoro, fluoro. No, no, per farlo realtà, arrabbiare, per farlo non arrabbiare. Capita, perché come puoi immaginare, poi all'interno della famiglia i discorsi spesso sono diversi da quello che riguarda l'attività lavorativa. Ecco. Stupendo. In questo periodo ci siamo scambiati molte opinioni sull'andamento di questa infezione da coronavirus. Sì, io l'opinione del dottor Leonardo, certo, voglio sapere, sarai tu devo che dire, gli dicevi invece, delle cose. Sì, sì, certo, lui mi riportava alcune cose e io, avendo lui fiducia nelle sue conoscenze mediche, le riportavo. Comunque, cari saluti e buon proseguimento della trasmissione. Grande Carlo Eugenio Bonetti, fratello di Leonardo Manera. È tutto strano, ma d'altronde è così. Dai, andiamo al traffico. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, quando sono le 10:19 minuti, adesso vogliamo parlare di qualcosa di serio che sta capitando negli Stati Uniti. Le immagini forse le avete viste un po' tutti. Noi lo facciamo con un collega, un docente, un esperto di social media, Massimo Mantellini, blogger, Manteblog. Buongiorno Massimo e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. Allora, perché? Perché ci sono vari aspetti di questa vicenda. Uno è quello più di cronaca. Ecco, Massimo Mantellini in realtà è esperto e conosce molto bene i mezzi che vengono utilizzati come Twitter, Facebook. Però ecco, Massimo, ti chiedo questo. Il presidente Trump come sta usando i social per gestire questa questione nata a Minneapolis dopo l'uccisione di George Floyd? Può sembrare strana la domanda, come sta usando i social, ma sappiamo che Trump li usa moltissimo. Uno degli ultimi tweet ha commentato il video di un pestaggio di un uomo che a Dallas difendeva dai manifestanti il proprio negozio con questo slogan: terribile, dove sono gli arresti e le sentenze per il carcere a lungo termine? Cioè emette giudizi, lo sappiamo, di questo tipo. Massimo. Ma lo sta usando come lo ha sempre usato negli ultimi anni, vale a dire con un grande spregiudicatezza e aggiungendo moltissime bugie a una comunicazione molto polarizzata. I media americani sono pieni degli elenchi delle cose perlomeno inesatte che Trump ha twittato, perché diciamo Twitter è la piattaforma che utilizza più frequentemente. Hanno fatto degli enormi elenchi con migliaio o più affermazioni discutibili, è una maniera di comunicare molto in voga, che forse Trump ha inaugurato, ma che adesso è utilizzata da moltissimi in tutto il mondo, dove si cerca di avere attenzione polarizzando la comunicazione nella maniera più forte possibile, quindi sparandole il più grosso possibile. Questa è una grande sintesi. E su questo infatti adesso ne parleremo, Twitter ha risposto in qualche modo e si è ingaggiato a una vera e propria battaglia. Certo che non so se avete visto le immagini, è terribile quello che sta succedendo, era anche un po' prevedibile, è chiaro che covava qualche cenere sotto il fuoco, perché da un'uccisione sicuramente così terribile è divampata poi in proteste ovunque. Pensate che Trump è dovuto andare qualche ora nel bunker, Leonardo, nel bunker, sì, sapete, sentito, che quando c'è il rischio per cui c'è una minaccia concreta, la Casa Bianca viene portato nel bunker. Sono stati fatti anche molti film a riguardo. Massimo Mantellini, come hanno un ruolo i social in questa protesta, oppure una protesta su piazza soprattutto? Beh, hanno un ruolo sicuramente, perché ovviamente moltissime figure pubbliche di grande rilievo negli Stati Uniti, ma non solo, anche da noi, ieri girava questa immagine incredibile di un treno in Belgio nel quale c'era una specie di presa di posizione a favore dell'uomo ucciso, che ha fatto partire la questione. Hanno un ruolo, nello stesso tempo la piazza diventa, come si è visto spesso in questi anni, e cioè la comunicazione esclusivamente sui media digitali da sola non sposta più di tanto il punto di vista delle persone. È molto importante il fatto che le persone poi scendano in piazza. In piccolo è successa una cosa del genere con le sardine in Emilia Romagna e in Italia. A un certo punto i fenomeni devono intersecarsi in qualche maniera e devono comunque avere una visibilità che esca dai mezzi digitali, perché se questo non succede, la loro capacità di avvicinare le persone molto minore. Credo che negli Stati Uniti stia succedendo questo. Certo che sentire, cioè vedere i tweet di Trump è anche un po' uno spettacolo, se non fosse che l'uomo più potente del mondo, come si definisce il presidente degli Stati Uniti d'America, ha invocato l'esercito, poi la Guardia Nazionale che è arrivata, i cani, sguinzaglio i cani feroci contro i manifestanti, e poi ha accusato lui stesso i mezzi di informazione di mandare in giro fake news, accusa invece che della quale deve rispondere secondo Twitter, no? Ma questo è un tema interessantissimo che credo che condizionerà molto la discussione pubblica sulla libertà di espressione nei prossimi mesi, perché l'attacco di Trump a Twitter, nel momento in cui Twitter ha segnalato, diciamo, è intervenuta in qualche maniera sulla sua timeline, quindi banalmente aggiungendo un link al fatto che una cosa che lui aveva scritto poi probabilmente poteva essere controllata perché non era necessariamente vera. Questo ha causato un putiferio su una delle norme principali che hanno fatto in modo che Internet sia rimasta integra e sia diventata sempre più importante negli ultimi 20 anni, cioè quella secondo la quale la cosiddetta sezione 230 di una vecchia legge degli anni 90, secondo la quale i provider, quindi le piattaforme, non hanno la responsabilità, non possono essere ritenute responsabili per i contenuti che vengono messi online dagli utenti e quindi da Trump stesso. Questo tema, che sembra un tema legale, banalmente legale, in realtà è una questione che riguarda la libertà di espressione molto forte, perché da un lato ci sono quelli che pensano che le piattaforme debbano essere dei soggetti editoriali, dall'altra quelli che sostengono che invece le piattaforme non debbano avere alcuna responsabilità. Ecco, in questa sorta di contrapposizione si giocano molte delle molto del futuro. Perché la libertà di espressione, però, se uno dice qualcosa di palesemente sbagliato, anche se è, e soprattutto se è per il ruolo di responsabilità, il presidente degli Stati Uniti, che fare? Cioè, è molto, molto interessante come dibattito. Vedremo come va, e vedremo anche come va purtroppo la questione delle cronache. E, va bene, noi ringraziamo molto Massimo Mantellini, grazie per essere grazie stato qui. Guarda che Leonardo su Facebook sono tutti legati a questo. Gli altri mantengono l'amante, Manera la caldaia. Fanno sapere che la manutenzione dei caldaie deve essere fatta ogni 2 anni, peraltro. Tu cosa hai detto ogni anno? Questa è una notizia. A me vengono ogni a farlo ogni anno, probabilmente mi hanno turlupinato, nel senso che ogni anno mi chiamano, cioè, la manutenzione per legge che dobbiamo fare ogni anno, è un'ottima notizia quella che mi hanno dato. Che invece ogni due anni, quindi ti fai turlupinare e ti fai anche turlupinare evidentemente così, da chi viene lì e ti fa due robe e ti chiede poi 300-400 euro, ma giusto, tutto per lo spettacolo, tu lo fai solo per lo spettacolo, per essere in diretta. Vabbè, gran pagina, è stata una gran pagina di uno nessuno 100 Milan. Se vuoi andiamo lo faccio tornare, guarda, rompo qualcosa, sì, e faccio tornare Cristiano, se ti piace così lo tanto, so. Vado lì, guarda, stacco no, un pezzo dalla caldaia. Dico, Cristiano, guarda che il signor Milan si diverte a sentir parlare della mia caldaia, vediamo cosa c'è di rotto questa volta. C'è anche la lavatrice, la lavastoviglie, il forno, il... Ci sono tanti oggetti che potresti... Vabbè, Maurizio dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, io sì, intanto saluto a tutti e anche in un'altra maniera che ho conosciuto nel 99 per stare lì al Teatro Michelangelo. Dire, l'ho conosciuto. A Modena? No, a Milano, Teatro Michelangelo per una trasmissione televisiva. Ma niente, è così, lasci stare Maurizio, vabbè, lasciamo stare. No, no, io volevo riferirmi, diciamo, andare sull'argomento di quella cosa drammatica che è successa con questa ragazza che ha ammazzato il padre. Ecco, io sì, chiedo sì, un attimo una specie di... sarebbe da fare il punto, mettere il fuoco sulla situazione. Io intanto in questo momento parlo di magistratura, in questi giorni forse conviene magari lasciare perdere, nel senso che è un momento un po' particolare, però detto questo, entrando proprio nel particolare, e nel momento in cui una ragazza uccide un padre, a me dispiace che un avvocato dica in questo stato, dica il coltello è stato appoggiato poi con la coltellata, non è vero, cioè io ho lavorato purtroppo, per... Beh, non è vero, però c'è stato un giudice che ha deciso così, non è che lo dice l'avvocato, il giudice si è pronunciato. Va bene, allora, diciamo che io non discuto quello che dice il giudice, va bene, così siamo a posto, perché io però succede questo. Nel momento stesso in cui c'è un piatto della bilancia, in cui da una parte c'è un padre violento e dall'altra parte c'è un omicidio, non posso dire che l'omicidio non è omicidio, quello è omicidio. Poi lo posso dire, io vengo assolto perché diciamo è stata una legittima difesa, è un conto, ma rimane omicidio. Tra l'altro voglio dire... sarà un omicidio, è un omicidio commesso per legittima difesa, e quindi, cioè, nel senso, non ho capito, lei non crede alla versione raccontata, credo tutto quello che è successo, dico soltanto che stiamo creando un problema, nel senso che il problema di un ragazzo che ha 18 anni, quello che è, uccide un genitore con una coltellata, non va cancellata, va presa e analizzata, perché secondo me va protetta la famiglia, non solo dal punto di vista che se un uomo violento va allontanato dalla famiglia, ma dico che bisogna dire ai ragazzi, ai giovani, è già successo due volte, che in questi casi devono fidarsi delle istituzioni dove ci sono forze dell'ordine, polizia, ma soprattutto assistenti sociali, che loro intervengono prima che questo succeda. Ora, il fatto che questo sia successo per la seconda volta, facciamo attenzione, perché questo comunque è omicidio, cioè ora... Non è mai chiaro, ma guardi che Leonardo Manera ce l'aveva detto la scorsa volta, cioè non è che deve passare il principio per cui uno viene, c'ha un familiare violento, prende, lo ammazza, non è così, no? Leonardo, ma anche stamattina abbiamo precisato anche stamattina che l'omicidio è avvenuto nel corso proprio dell'atto di violenza che stava per essere che veniva effettuato, in questo senso è stato valutato come legittima difesa, perché in quel momento c'era un'aggressione, e poi è chiaro che rimane un omicidio per legittima difesa, è stato valutato dai giudici. In ogni caso andiamo a sentire la borsa, dai, e poi rientriamo qui a uno nessuno 100.000. Fineco, è tempo di investire con noi, vi presenta uno nessuno 100 Milan. Siamo qua. Leonardo? Eccomi. Questa veramente è da ridere. È uscita con il bollino rosso sull'Ansa, bollino rosso. Anzi, bollino notizia rosso importante. e due croci. Notizia importantissima. Importantissima. Sai che sta per partire la app Immuni, ce la stiamo facendo. Sì. Bene. Contemporaneamente dei buon temponi hanno messo in giro dei virus informatici, un virus che si chiama Fuck Unicorn, cioè contro gli unicorni, fuck, potete capirlo, abbastanza internazionale, Fuck Unicorn, che diffonde un virus con il pretesto di farti scaricare un file che hanno denominato Immuni e ti prende in ostaggio i dispositivi per poi chiedere un riscatto. Già questo c'è una cosa per cui c'è già qualcuno che ha visto questo file Immuni di ma che parte l'app Immuni, e invece sono dei buon temponi, dei disgraziati, insomma, che stanno pare creando dei problemi con questa falsa Immuni. Ragazzi, d'altra parte si parla da tempo della falsa immunità, quindi è così, ho capito. Eccola, va bene, l'ha detto. Allora, intanto io voglio, siccome a quest'ora mi viene un certo languorino, devo capire subito, devo andare al Terra Matta di Via Trionfale a Roma, dove David mi deve preparare qualcosa stamattina. David, buongiorno, buona settimana. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Come va? Che si prepara oggi? Che materia prima c'è da lavorare lì? Oggi facciamo due piatti molto interessanti. Oggi faccio martagliati e fettuccina presuntuosa, che è una fettuccina bella spessa. E presuntuosa perché? Perché è bella cicciona. Ah, è bella cicciona. Ma giusto, il problema giusto. Oggi guarda, non è tanto i piatti, oggi è arrivare al ristorante. Ho trovato la tangentina perché Piccolo Raggio del Sole oggi ha deciso da far ponte a Tor di Quinto. Ah, giusto. C'è il ponte, quindi oggi si lavora poco, David, no? No, ponte nel senso proprio il ponte. Cioè, oggi questa si è messa a far ponte, a fare asfalto, è chiusa la tangenziale. Io non posso arrivare al ristorante, mi sono messo tutto. Sto passando per via Cortina d'Ampezzo, sto passando da tutte le parti. Cioè, oggi è tutta bloccata. Oggi dovrebbe essere una strada libera, invece oggi è tutto bloccato. Come va? È la nostra antenna, David, dal Terramata. Come va? La gente inizia a girare. Adesso il 3 giugno tutti liberi, arrivano i turisti. Stupendo, ma io turisti non l'ho mai visto, perché ripeto, sto dentro una borgata. Però la gente si muove, mano a mano deve per forza iniziare a mangiare. Sta gente che non è capace a cucinare. Io ci ho avuto gente che ha detto, proprio detto grazie perché volevo mangiarmi una cosetta. Io sono andato a Opa per due mesi. Quindi la gente ormai penso che qualcosa se sta inizia a muovere. Io penso che ristoratori come me, piccoli, ce la possono fare. Io perché sento tanta gente che si lamenta, io li capisco, perché forse sono troppo grandi. Bisogna un po' ridurre la visione. Bisogna mettersi un po' a lavorare. Adesso bisogna mettersi un po' a lavorare. È la rivincita della prossimità, della vicinanza, del quartiere, no? È un po' così, sì, della borgata. Io penso che la mia borgata risponde molto bene, stanno ritornando. Io ecco, riesco a riempire il locale, anche se ho meno posti, però riesco a riempirlo. Cerco di, ci provo, ho aperto un po' più di ore, nel senso invece da aprire, che ne so, le 8, apri le 7, quindi ci sta qualcuno che viene a mangiare le 7, così alle 9 me lascia il tavolo. Se ne va fuori dalle bar, sì. Però, così alle 9, via. Però sì, alla fine posso dire che non mi posso lamentare, io cerco, ce la faccio. Bravo. Beh, le fettuccine presuntuose che sugo hanno? Allora, in realtà la fettuccina presuntuosa è un termine per dire una fettuccina un po' cicciona, per non chiamarla cicciona, se nessuno sa mangia una cosa cicciona. Allora, presuntuosa è più arrogante, cioè uno dice mangia una cosa presuntuosa. Bello. Il sugo in realtà non è importante del sugo, io di solito preferisco sempre farla con guanciale e pomodoro fresco oppure cacio e pepe. Però il cliente mo dice lui, dice senti, a me fa male così, questa gente guarda, la maggior parte me la chiede in bianco, tipo all'Alfredo, diciamo, tipo che ne so, ma fai a me, ma fai pure Alfredo che non esiste, che non esiste, che non esiste, no, ma certo, ma certo che arrivano, non esiste. Gli stranieri, ci sono gli americani che dicono me la faccia all'Alfredo, mamma mia, ragazzi, che poi cos'è? No, io Piselli, un paio di volte ho avuto un paio di gente, mamma, che mi hanno chiesto cose strane, ho detto guarda, ma che sei scemo, ho detto, ma io non sono capace, ma vai da un'altra proprio i fratelli che proprio che non gli fanno, ma neanche a saltare certe cose, no, capito? A me forse vengono americani, dico fammi questo, mi ci metti dentro la carbonara e il pollo, cioè io non gli apporto qua, ragazzo mio. Vabbè, uno grande Davide, uno dei miei piatti che vengono bene è la carbonara, cioè? Io potrei col pollo, io faccio col pollo, no, la carbonara pollo, no. Non so se condivide, vediamo Davide, come la fai, vediamo Davide come la fa, vediamo come la fai Leonardo. Allora prendo la pasta, la faccio bollire, nel frattempo metto un po' a soffriggere il guanciale senza olio perché è già grasso di suo, che quindi non c'è bisogno di aggiungere olio. Poi prendo le uova intere, le sbatto un po', un paio di uova, le sbatto un po', aggiungo un po' di latte mentre le sbatto e di pepe. Latte, non metto formaggio. Latte. E pepe. Davide, com'è il latte? Metto formaggio. Sì. No, poi scolo la pasta. A me dispiace, ma in realtà il problema è nato già quando ha detto latte, cioè il problema è proprio là. Allora, è un piatto povero, è un piatto semplice, è un piatto due uova, un po' di pepe e pecorino. Se basta, non c'è neanche da spiegarla. Ma un goccio. Ma metto un goccio di latte nelle uova mentre le sbatto. Proprio per rendere più cremoso un po'. Ma perché mette il latte, secondo te? Perché mette il latte? Per renderlo più cremoso. Ma non lo so, ma il latte, no, io in cucina neanche ce l'ho il latte, non l'ho mai usato in vita mia il latte, quindi non so neanche. Cioè, quella cosa strana è il latte. Com'è che lo fa mettere cremoso senza latte? Com'è che lo fa cremoso? Con l'acqua di cottura, no? Ma è un goccio d'acqua di cottura. E poi bisogna saltarla poco, perché sennò quella si prende e si asciuga, l'uovo deve essere un po' crudetto, perché deve essere fresco e basta. E fa la cremosa. L'uovo si mette. Io metto il pecorino. Io non mangio formaggio. Io l'uovo metto sia il tuorlo che l'albume con latte e il pepe. Poi quando ho scolato la pasta, la metto nella padella col guanciale e senza fuoco acceso gli verso sopra e l'uovo. È buonissimo. No, va bene, tanta gente. Senti, dice Davide, c'ha una certezza nella vita, Leonardo Manera, di saper fare la carbonara. Dai, lasciamolo così, lasciamogliela questa certezza. Sì, se non mangi il formaggio, non devi mangiare la carbonara, devi mangiare un altro Ma che ti devo dire? Ma lasciamolo così, cioè, mi si amareggia anche sulla carbonara. Almeno tu digli, sei bravo, digli bravo, Leonardo, ottima carbonara, bravo. Io continua così. Io consiglierei un aglio e peperoncino che non ci va a formaggio, una puttanesca che non ci va a formaggio e va tranquillo, quindi sostituiti esatto. Può sfondare, insomma. Ho fatto una pasta, Davide, buonissima qualche giorno fa, la suggerisco anche a Davide. Allora, la pasta la suggerisco perché avrebbe grande successo, Davide, provala. Sì. La pasta col pesto di pistacchio e un po' di mollica leggermente scottata brustolita. Secondo me è buono. Il pesto di pistacchio lo mette 40 euro il piatto. Io sto a posto con i piatti. Io se faccio un pesto di pistacchio devo stare a 45. Davide, no. niente, trova altri consulenti. Intanto buon viaggio verso il ristorante. Ricordo Terramatta in Via Trionfale, il nostro grande Davide che abbiamo conosciuto qui. Ogni tanto lo chiamiamo, ristoratore a Roma, che non si lamenta. Ma adesso che vuoi, Anacleto? C'è Anacleto, ma cosa vuoi? C'è il momento che c'è? Ho sentito questo buongiorno a tutti. Ho sentito viva la chiesina, sempre viva la chiesina. Ho sentito questo menù da spettichi nel frigorifero di Leoniero, lì ci sarà un latte al limite della scadenza, la mozzarella scaduto. Al limite della lui ormai. Ma tu le hai viste le foto del frigorifero di Manera ogni tanto? No, allora però mi organizzo per trovare un telefonino per mandarti qualche WhatsApp su Facebook. Sì, esatto, mandami WhatsApp, no, te che sempre cose serie, più tipirolo, ci hanno fatto due palle. Dio, boh, non ce ne può più, Dio, boh. Non ci indovina nulla nessuno. Senti, ti applaudono anche, ti applaudono Peter, no, Peter l'Alpino. Non ci indovinano mai, non ci indovinano, uno dice una cosa, uno dice un'altra. Uno ma mica sono astrologi, cioè. Ma vero, mica... appunto. Sono bravi, ma qui non ci hanno capito nulla nessuno. Ma e che ne sai tu? Ma che cioè, ne adesso so, virologo Anacleto. Nievole, più sono più ignorante davanti Nievole, ma insomma queste cose lì... E le leggo anch'io, 100 virologi, c'è uno che va bene, lasciamo perdere. Quando vieni, ti, dimmi a che ti può fare il sacchettino, si va a mangiare da Benito a Orientale, da Benito, eccola là, mondiale. La bistecca, poi, sì. E poi quando si va via, ci fa il sacchettino della roba che è avanzata. Perché lui la porta a Milano, ne dura, non si sa mia quanto ne dura lui, capito? Un po' pidocchiotto com'è. Perché anche te mi sa che tu sia sul braccino, eh? Ma no, come ma il no. mio amico Roberto no. Benedetti, avete il braccino, grandi chiacchieroni, intelligentissimi, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Noto, però, noto braccino, Roberto braccino Benedetti. Benedetti tu lo conosci, Leonardo? Roberto Benedetti della Chiesina. Noto braccino della Chiesina. No, è un braccino. Cioè, te lo offro un caffè, Roberto Benedetti. La vedo dura. Perché lui arriva quando lo pigli a casa il caffè. Poi se arriva al bar l'ho già bevuto, sì. Dai, Anacleto, il caffè, allora lo piglio. Che devo andare al traffico, disgraziato. Ci sentiamo in settimana, fai il bravo. Ciao, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccoci qua, signore, l'ultima parte di Uno Nessuno 100 Milan. C'è Angela Maria dalla provincia di Milano. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Io volevo, che ci dice? Volevo dire che praticamente noi siamo tutti portati a pensare ai soldi, a qui, alle vacanze, eccetera, e non pensiamo alla nostra salute. Noi prima. Guardi. Io in tutta la vita non ho mai fatto una vacanza. Perché? Ma perché non lo ritenevo opportuno. Cioè, la vacanza che cosa significa? Andare in un altro posto e star lì senza far niente. Beh, cioè, Angela Maria, oppure scoprire il mondo, visitare. Ma quello è un altro discorso. Ma io sto parlando adesso di questa ansia di avere per forza la vacanza. Le vacanze. Noi non ci siamo mai fermati a pensare che cosa veramente ci porta tutto questo macello che ci sta. Sì. Vabbè, lei dice possiamo godere degli amici. Vivere nella natura, ma se io vivo in un condominio di Viale Monza, magari vorrei vederla la natura, insomma, stando a Milano, vedo tanto cemento. Vorrei vedere il mare, se no se mi porta al mare a Milano. Alessandro, io sto parlando di questo periodo. Sembra che se non si va in vacanza non si sta bene. Questo è il tema, signora, di Angela Maria. Non è il mio tema, è il tema di quelle persone che hanno pensato l'opinione non tanto sua, l'opinione parire, sua, ma all'essere. Signora, lei ha detto che non ha mai fatto una vacanza in vita sua, forse è un po' eccessivo. Un po' esagerato, però comunque è l'opinione di Angela. Mio padre era della Marina Militare, per cui eravamo sempre trasferiti e quindi non si aveva neanche la possibilità di andare. Ma non c'è mai venuto nella testa di andare in vacanza. Certo, è una posizione un pochino, come dire, sicuramente alcuni la condivideranno, altri no. Io dico massima libertà ad Angela Maria, massima libertà a chi vuole può andare in vacanza e lo faccia, insomma, in grande serenità, perché se non diamo una stretta non ce la facciamo. So che è venuto a trovarci il nostro cuoco, Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, che non mi chiami cuoco, non mi che chiami chissà cuoco. Cosa ne pensa di Davide della sua carbonara adesso, chef, ma maestro. Quei ristorantini dozzinali, proprio dozzinali, per mangiare dozzinali? La gricia, cacio e pepe. Buonissimo. Un cacio e pepe, tutti sì. col bicchiere di vino, col calice di vino. Mamma mia, ottimo, che cattivo ottimo. Gusto. Che cattivo, ma perché? Gusto, che cattivo gusto. Ma perché? Ma no, non si può andare a mangiare per riempire la pancia, si va a mangiare per inebriare la mente. Mi lasci dire, si mangia però, si mangia allora, ha svelato questo. No, non si va al ristorante per mangiare per riempire la pancia, ho detto, ma per inebriare la mente, per inebriare la mente. Ecco. Va bene. Allora. Poi lei mi ha definito cuoco. Ecco. Sì. No. Io sono Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale, ma mi chiamano anche eccellenza, sintesi, ecco, sì. Io sintesi, molti mi chiamano universo. Universo perché con me si prova la sensazione di infinito. Comunque ha riaperto la mia dimora culinaria, adesso di Nice, infatti. A Pannocchio di Castelbiondo, e abbiamo risolto quindi il primo problema degli italiani. La mia dimora culinaria era chiusa, adesso abbiamo risolto questo problema rispettando le regole. Per esempio, i miei collaboratori indossano guanti in cashmere, le mascherine sono fatte a mano da una storica bottega veneziana. Al posto della soluzione alcolica, per disinfettare le mani usiamo un amarone dell'83. Attenzione, così questa, proprio questa ironia, no vabbè, ironia ho capito, fuori ma... luogo no. Ironia fuori luogo di chi vuole andare a mangiare il calcio e pepe, ecco, Alessandro Milan. Allora, diciamo anche che il costo da noi è un po' elevato, 300.000 euro bevande escluse, ma giustificato 300. dall'esperienza emozionale. Noi, ecco, se vuoi mangiare per esempio gli spaghetti alla chitarra, vai in trattoria. Sì. Noi la facciamo diversamente. Noi prendiamo la farina, la carichiamo in macchina, la portiamo nella tenuta di Sting in Toscana. Così la pasta alla chitarra la fa lui mentre suona. Ecco. Emozionante. Ah, perché è una ricetta abbiamo che abbiamo due minuti, sì, caro, sì, sì. Ecco, chef. Allora, si intitola Armonia degli opposti. Armonia degli opposti. Ingredienti: 1 cm² di foglia ghiocuro, detta anche gioiello di rugiada, e 1 microlitro di acqua purissima dei fiordi norvegesi. Allora, dovete procurarvi gli ingredienti. Prenotate un volo di sola andata per il Giappone per procurarvi la foglia ghiocuro. Quindi una volta a casa fate bollire il 1 microlitro di acqua e immergetevi il 1 cm² di foglia e voilà. Qualcuno potrebbe dire mi sono fatto un tè. Non è un tè, è un manifesto valoriale sull'incontro tra Oriente e Occidente, un esperimento sulla fusione, anzi sull'infusione fra l'antica sapienza del sollevante e l'avanguardia scandinava del microlitro di acqua scandinava, un discorso sulla contaminazione tra filosofia buddista e pragmatismo nordico. Un tè molto costoso, ma no, non è un tè, ti ho detto cosa si chiama. Domande: posso usare un'altra acqua? No. Posso usare un'altra foglia? No. Posso comprare online? No. Fine delle domande. Ecco. Va bene, ho capito. Va bene, di Nice, dove potete immergervi prima nella mucchina e poi in una vera esperienza gastro-olistica. Va bene. La ringraziamo. Baroncelli, da mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda, in Tingolo, Paciulli. La ringraziamo molto, carissima sintesi. Allora, carissima mi dispiace sintesi. Portare le mie innovazioni, la mia cultura in un programma così popolare. Pessimo, va bene, va bene. Nel senso più dispregiativo del termine, popolino. Ecco. Popolino, noi ci troviamo domani siamo però in realtà così, ci siamo ma in una formula un po' strana, non in diretta, ecco, lo dico alla maniera, anche se andava detto in maniera più elegante, e poi mercoledì invece in diretta, va bene? Intanto ci dobbiamo salutare, a domani.